Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Morena Rossi. I carefully cut the cord, removed the pressure seal, drew back the bolts, and opened the door. La voce che avete appena sentito è quella del nostro primo protagonista di oggi, Howard Carter. Howard Carter. La solennità delle sue parole nel raccontare i gesti cerimoniosi che lo accompagnano nella semplice azione dell'aprire una porta ci fanno pensare che quella porta non sia un semplice accesso a un luogo, ma comprenda invece un significato più profondo di accesso, in grado di coinvolgere lo spazio, ma soprattutto il tempo. Entriamo dunque nella vita di questo signore inglese di mezza età che di fronte a quella porta particolare sente che si sta per compiere il suo destino. E per farlo cominciamo con l'indagare meglio il significato simbolico legato alla porta. Varcare una soglia, sia nella cultura occidentale che orientale, ha il significato di riunirsi a un altro mondo. La porta rappresenta la separazione o la comunicazione tra due ambiti. La soglia è quasi il punto d'incontro di due livelli, l'interno ed esterno, il noto e l'ignoto, il sacro e il profano. E di porte nella vita di Carter se ne sono aperte e chiuse parecchie, a volte sbattute in faccia, altre volte forzate con la tenacia, altre volte ancora appena socchiuse. Ma nel novembre del 1922, davanti a lui, c'è la porta che lo sta conducendo, dopo molti anni, all'incontro con la storia. Tutto comincia in Inghilterra alla fine dell'Ottocento. Il padre di Carter si guadagna da vivere dipingendo ritratti di famiglia per l'Illustrated London News, una rivista ricca di illustrazioni, che pare sia stata anche una delle prime fonti di formazione artistica per Vincent van Gogh. In quell'ambiente viene facile anche al giovane Carter mettersi davanti a un foglio bianco e schizzare paesaggi. Pur non avendo lo stesso talento del padre, comincia col seguirlo sempre più spesso nelle sue visite ai ricchi personaggi della zona che si vogliono far ritrarre. Una delle prime porte verso il suo futuro si aprirà proprio entrando nella casa di uno dei signori che avevano richiesto i servigi del padre, il barone William Amherst Thyssen-Hammerst. La casa del barone è quanto di più sorprendente ci sia per Howard. Varcare quella soglia e trovarsi di fronte a una collezione incredibile di oggetti antichi, soprattutto provenienti dall'Egitto, stimola l'immaginazione del giovane, che vuole a tutti i costi saperne di più. Il destino comincia da qui a tessere la sua tela. E come se fosse un richiamo a qualcosa che lo preesiste, Carter comincia a intrattenere un rapporto di amicizia col barone. Sente che, tra quelle antichità, c'è qualcosa che lo aspetta. Un giorno, mentre i due stanno bevendo un tè e discutendo di storia, si presenta alla porta del barone l'amico archeologo Percy Newberry, che prende subito in simpatia quel ragazzo così desideroso di conoscere la civiltà egizia. Comincia col raccontargli della stele di Rosetta, ritrovata un secolo prima sul delta del Nilo. Ehi, venite! Guardate cosa c'è qui! Secondo te che cos'è? Sono diverse scritture incise sulla pietra. Perché l'avranno fatto? No. Questo è greco. Siamo in grado di leggerlo. La porta che si apre sulla comprensione dei geroglifici con il ritrovamento di questa lastra di basalto riportante la stessa iscrizione in tre differenti grafie darà una nuova svolta all'egittologia a partire dal 1822 grazie al francese Jean-François Champollion. Per Carter è tutto così intrigante. Ascolta i racconti e annota sul suo taccuino le sue riflessioni. Fa addirittura dei disegni di come si immagina siano i reperti di cui l'archeologo Newberry gli parla, fino al giorno in cui arriva un'opportunità. Il British Museum di Londra, dove la stela è custodita dal 1802, sta preparando una spedizione in Egitto e Newberry propone al giovane di unirsi a loro in qualità di illustratore per riprodurre ad acquarello le pitture tombali e tutto quello che sarà di interesse per il museo. È il dicembre del 1891. Carter non ha ancora 18 anni e parte per il Cairo, facendo così ingresso nel paese dove si compirà la sua storia e la storia dell'Egitto. I primi anni in Egitto per Howard Carter sono una sorta di apprendistato e coincidono con gli anni di una nuova visione sull'egittologia che sta acquistando finalmente piena valenza scientifica e non è più solo demolizione brutale di tombe alla ricerca di tesori sepolti o razzie di oggetti e mummie. La prima volta che mette piede nella Valle dei Re, a Tebe, l'odierna Luxor, Howard avverte uno strano presentimento. Qui passerà gran parte delle sue giornate riproducendo su fogli ogni angolo di quel luogo scelto nell'antichità per le sepolture dei sovrani. Disegna, scrive, riproduce in maniera maniacale tutto e osserva il metodo dei cercatori di fortuna che si avvicendano dentro e fuori dalle tombe. Lui non ha preparazione scientifica in proposito, eppure si sente sul limitare di una nuova soglia professionale e personale e non vede l'ora di varcarla. Comincia a imparare un po' l'arabo e quando scopre che la Valle dei Re è conosciuta in lingua araba come Biban el Moluk, ovvero la Valle delle Porte dei Re, sente soffiare uno strano vento sul suo viso. Un vento che sembra arrivare da lontano, forse proprio dalla porta che lo separa dal suo destino. Tutti i giorni esce di casa con il suo album da disegno e un cappello in testa per proteggersi dal sole, lui che in Inghilterra non è mai stato abituato al sole, e si dirige a cavallo nella valle. Una volta qui si mescola agli archeologi per comprendere meglio come avvengono gli scavi, qual è la metodologia degli operai nel portare via i detriti, come si sceglie dove concentrare le ricerche. Instaura inoltre buoni rapporti con le popolazioni locali, soprattutto con i Kurnawi, una stirpe di ladri locali che lo tengono informato sulle attività dei trafugatori di tesori, dandogli così una visione privilegiata sulle scoperte delle tombe. In pochi anni sente di appartenere a quella terra per un qualche disegno del fato, anche se l'impero britannico rimane la sua patria. Fra l'altro, ha come la sensazione che sia da lì che arriverà l'aiuto di cui ha bisogno per completare tale disegno. E intanto la strada verso il futuro comincia a delinearsi. Un giorno di dicembre del 1899, Carter, mentre si trova nella Valle dei Re, viene sorpreso da una tempesta ed è costretto a rifugiarsi in uno dei templi. È tutto così affascinante. Passa l'intera notte a stretto contatto con questa antica civiltà e al sorgere del sole esce da quel sacro rifugio per dirigersi verso casa. Uscito dall'oscurità del tempio, viene colpito da un'abbagliante luce. È solo il giorno o invece un presagio? Nella valle, nel frattempo, stanno riprendendo le attività quotidiane di scavo. Arrivano i signori finanziatori, la gente del posto cooptata come manovalanza e gli archeologi. Howard si affretta, vuole tornare in città, è stanco. Ripone i suoi acquerelli, prende il cavallo e parte. Nel mezzo della valle viene disarcionato. I disegni volano in aria e il giovane aspirante archeologo finisce faccia a terra, dove cerca di capire cosa sia successo. Nel cercare quale ostacolo possa avere bloccato lo zoccolo dell'animale sul terreno, facendolo inciampare, sente sotto le sue dita che ispezionano la sabbia una pietra. Affannato, cerca di scavare a mani nude e si accorge che quella pietra ha tutta l'aria di essere un gradino. Nasconde come può quell'indizio e rimonta a cavallo. Ha bisogno di condividere quella scoperta con la persona giusta. C'è solo un uomo che può aiutare Carter in questa fase ed è il miliardario americano Theodore Davis. Già scopritore di molte tombe trovate però saccheggiate, non appena sente parlare di un nuovo potenziale tesoro che dal racconto entusiastico di Howard potrebbe sembrare intatto, decide di imbarcarsi col giovane inglese in questa nuova avventura. L'archeologia sembra pronta a entrare in una nuova era, grazie soprattutto all'atteggiamento meticoloso e scientifico di Carter, che all'epoca ha solo 25 anni, e alla passione per l'antico Egitto, che sembra derivare da una specie di predestinazione, aggiunge il suo carattere schivo. Ecco come ne parla un egittologo britannico che in quegli stessi anni si trova in Egitto, Sir Alan Gardiner. Carter è sempre stato un tipo strano sotto vari aspetti, ma ha avuto molti pregi. Era una specie di genio nella tecnica degli scavi, nel registrare con precisione e preservare tutti i fragili oggetti dell'antichità che venivano trovati. Tutto il tempo passato a disegnare e riprodurre su carta il fermento di ricercatori nella Valle dei Re ha portato Carter fin qui, a trasformare un sogno in realtà. Finalmente anche lui adesso può misurarsi con uno scavo tutto suo e lo può fare mettendo a frutto tutto quello che ha imparato. Entusiasta, manda un telegramma al padre. Il disegno mi ha portato in Egitto e lo devo a voi. Adesso è arrivato il momento di dimostrare qual è il mio vero talento. Forse ho trovato una tomba e un finanziatore. Vi aggiornerò. Vostro figlio Howard. In quel periodo, come direttore del Servizio delle Antichità Egizie, organo che gestisce tutte le attività archeologiche nel paese, c'è un francese, Gaston Maspero, che con quel giovane inglese così curioso e appassionato di egittologia stringe subito amicizia. Non ci vuole molto perché lo nomini capo ispettore delle antichità del Basso Egitto, dandogli così un ruolo all'altezza delle sue capacità. Per Howard Carter comincia a intravedersi la strada verso il suo futuro. L'Egitto è casa, l'archeologia una passione. La Valle dei Re, il destino. Theodore Davis, il magnate americano che finanzia il suo primo scavo, è emozionato all'idea di poter trovare finalmente qualcosa di intatto, un po' pensando al valore scientifico di tale scoperta, ma un po' pensando anche alla sua brama da collezionista. Quel gradino trovato per caso da Carter, in mezzo alla sabbia, viene liberato in alcuni mesi di lavoro, mostrando di essere il primo di un'intera scalinata che porta a una tomba. I giorni si succedono pieni di ansia per quel ritrovamento. Carter non manca di presenziare alla rimozione dei detriti, dirige i lavori fino alla fine. La curiosità è alle stelle, e per l'apertura della porta che dà accesso al sepolcro, dove forse si sarebbe trovato un nuovo tesoro, viene chiamato anche Davis. In realtà, al di là del muro c'è una delle tante tombe già trafugate, ma che nonostante tutto si rivela importante. Al suo interno ci sono custoditi ancora intatti qualche preziosa suppellettile e un carro. Arrivati al sarcofago, Carter identifica il nome del faraone Tutmosi IV. È solo l'inizio. Mentre scava, rinviene una tazza di alabastro con un piccolo scarabeo azzurro riportante il nome della regina Hatshepsut. Questo lo porta a scavare nelle zone limitrofe, finché arriva al sepolcro della regina, una tomba di ben 200 metri, la tomba più lunga della valle. Sembra che tutto parta da un disegno che lo sta conducendo alla ricostruzione del passato per edificare il suo futuro. Al contrario di quanto ritengono i suoi predecessori, comprende che più importante di scavare e scoprire tesori è il conservare quanto scoperto. Si dedica perciò alle operazioni di salvaguardia e conservazione degli arredi e degli oggetti. Arriva la celebrità, che però nel 1905 viene interrotta bruscamente da uno scandalo. Un gruppo di francesi ubriachi e arroganti cerca di entrare in uno dei sepolcri senza biglietto, spintonando il guardiano che cerca di opporre resistenza. La situazione degenera, la lite si fa pesante e uno dei francesi rimane ucciso. Carter, in qualità di ispettore capo, viene ritenuto responsabile dell'accaduto e una volta tornati al Cairo, i turisti chiedono al console che il giovane inglese porga loro le sue scuse. Ma l'uomo che nella Valle dei Re ha scoperto due tombe non vuole subire tale umiliazione e così si dimette. Ecco una porta che si chiude nella vita di Carter. Senza lavoro e senza prospettive, ricorda di avere a disposizione il talento del disegnatore. Non gli resta che rimettersi a dipingere per guadagnarsi da vivere, come scrive al genitore dal quale ha ereditato la passione. Padre, siete sempre nei miei pensieri. Una volta di più, ora che la vita mi riporta all'attività dell'illustratore come fonte di sostentamento. Spero di riuscire a farvi visita presto. Vostro figlio Howard. Mette così da parte le velleità del ricercatore e si dedica ai ritratti dei turisti, sempre più numerosi nella Valle dei Re, per visitare le nuove scoperte. Turisti che non sanno di essere di fronte all'uomo che sta per cambiare le sorti dell'egittologia. Con Theodore Davis, il suo primo finanziatore, le possibilità di collaborare scemano. Troppo pericoloso per l'americano coinvolgere chi è stato costretto a dimettersi da Gaston Maspero, il direttore generale delle antichità dell'Egitto, che gestisce le concessioni di scavo nella Valle dei Re. ma qualche anno più tardi sarà lo stesso Maspero a rivalutare la situazione. Del resto, il giovane inglese si è conquistato la fiducia delle autorità grazie ai suoi anni di permanenza al Cairo e, visto soprattutto che ha pagato personalmente per una faccenda dai contorni ancora incerti, sembra arrivato il momento di dargli una nuova opportunità. Nel 1907, in occasione della riunione annuale della Commissione Governativa per le Antichità, riunita per concedere i permessi di scavo, il nome di Carter viene fatto a un lord inglese arrivato da poco con la moglie in Egitto per motivi di salute e dichiaratosi intenzionato a investire risorse nella Valle dei Re. Come molti magnati dell'epoca, coltiva la passione, meglio l'ambizione, di entrare a far parte della storia dell'archeologia. Una nuova porta che si apre per Carter e che arriva dall'Inghilterra, da casa. Eccolo il destino che ti raggiunge quando meno te l'aspetti. Emozionato, non manca di comunicarlo al vecchio padre. Sembra che grazie all'intervento di un ricco inglese possa ricominciare la mia attività d'archeologo. Spero che questa notizia possa aiutarvi a sopportare la mia lontananza, sapendomi felice. Vostro figlio Howard. Il disegno del destino si sta per compiere e per farlo ha chiamato in Egitto due inglesi. Con la magia che contraddistingue questa terra da millenni, la strada sulla quale i due si stanno incamminando sarà piena di sorprese e imprevisti, ma porterà comunque alla porta dell'eternità. Destini incrociati. Siamo in Egitto, più precisamente al Cairo. Dopo lo scandalo che ha coinvolto l'archeologo Howard Carter e l'ha allontanato dalla sua attività di ricercatore d'antichità, si presenta per il giovane inglese una nuova occasione. È il 1907 e nella Valle dei Re gli scavi proseguono grazie ai finanziamenti di ricchi magnati desiderosi di nutrire più che la storia le loro collezioni private. Dall'Inghilterra è appena arrivato Lord George Herbert, che si dice interessato a investire in nuove ricerche e sta cercando qualcuno d'esperienza per condurre i lavori. Gli viene fatto il nome di Howard Carter. Il primo incontro tra i due non è proprio idilliaco. Da una parte la loro differente estrazione sociale, pur arrivando dalla stessa patria, li mette sulle difensive. E poi la loro storia personale. Carter ha ormai 33 anni e una lunga esperienza da serio ricercatore, nonostante qualche piccola caduta. Lord George Herbert, quinto conte di Carnarvon, ha 41 anni, è ricco e considera l'archeologia un passatempo, l'occasione per mostrare oggetti di valore ai conoscenti. Ancora non sa che passerà alla storia grazie all'incontro con quel giovane, col semplice nome di Lord Carnarvon. Lord Carnarvon. Ne parla il pronipote di Lord Carnarvon, George Herbert, l'ottavo conte di Carnarvon. Lui incontrò Carter qualche anno dopo i suoi primi scavi nella Valle dei Re. Avevano due caratteri molto differenti. Mio bisnonno era un uomo ricco e solitario. Carter era altrettanto solitario e indipendente, ma la sua storia personale lo aveva visto recentemente vittima di un incidente diplomatico a causa di alcuni turisti francesi e si trovava perciò senza lavoro. Per un uomo con le sue capacità era piuttosto difficile rassegnarsi a guadagnarsi da vivere facendo ritratti, ma venne presentato al mio bisnonno come un uomo dalla grande esperienza e per entrambi quella fu l'occasione della vita. Gaston Maspero, direttore generale delle antichità dell'Egitto, l'uomo che rende possibile quell'incontro, concede loro di scavare dalle parti di Deir el-Bahari, zona ancora poco battuta. Lord Carnarvon, nuovo ad avventure di quel genere, fa pesare la sua superiorità economica a Carter. Carter, dal canto suo appena riammesso tra la cerchia dei ricercatori ufficiali, cerca il modo di non farsi schiacciare dall'ennesimo ricco che tiene di più alla fama personale che alla storia e si mette al lavoro con la meticolosità che lo contraddistingue. Arriva il primo ritrovamento e a testimonianza della diversità di approccio all'egittologia dei due, ecco come lo registra nel suo taccuino Lord Carnarvon. Scavavamo da giorni a Deir el-Bahari quando rinvenimmo una sepoltura inviolata. aveva un aspetto straordinariamente moderno. Vi erano diverse bare. Una di esse attrasse particolarmente la nostra attenzione. Era bianca, dipinta con cura. Aveva una coltre funebre e ai piedi un mazzo di fiori. Per 25 secoli nessuno le aveva toccate. Dimenticate. Non tardammo a scoprire perché i tombaroli avessero risparmiato quel sepolcro. Era completamente privo d'oggetti di valore. Evidentemente le casse appartenevano a povera gente. Le prime esperienze archeologiche del ricco lord inglese sono un misto di entusiasmo per il nuovo gioco del ricercatore e anche una grande delusione per il collezionista, poiché non vengono trovati oggetti di valore. Carter cerca di tenere a bada quel lato del carattere del suo finanziatore, spiegando che bisogna avere pazienza. E intanto prosegue le sue giornate sotto al sole con gli operai per togliere detriti e indagare indizi che emergono dalla sabbia per indicargli nuove strade. Lui, il predestinato, sente che l'Egitto ha in serbo una grande sorpresa. Gli anni di collaborazione tra i due proseguono e i ritrovamenti, anche di discreto interesse scientifico, a Lord Carnarvon sembrano sempre insufficienti dal punto di vista economico. Ha investito anni e denaro e in cambio non ha avuto ancora nulla. Si aggiunga a questo che Theodore Davis, l'altro magnate che si interessa di archeologia con il quale Carter ha fatto i primi lavori, ha dichiarato che nella Valle dei Re non rimane più nulla di interessante da scoprire. A peggiorare la situazione ci si mette lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e la conseguente interruzione di tutti gli scavi nella Valle dei Re. Lord Carnarvon ritorna in Inghilterra, deciso ad abbandonare i finanziamenti alle ricerche, mentre Carter rimane tra il Cairo e Luxor, impegnato come corriere diplomatico per i servizi segreti britannici. Convinto che ci sia ancora molto da scoprire, impiega il suo tempo per studiare un nuovo piano e far tornare l'entusiasmo anche al suo finanziatore. È sicuro che Theodore Davis si sbagli, poiché le sue ricerche sono localizzate nella parte visibile della Valle dei Re, mentre scavando e raggiungendo lo strato zero, ovvero quello che doveva effettivamente essere il piano di calpestio all'epoca in cui le sepolture erano state eseguite, è certo ci siano ancora dei segreti da rivelare al mondo. Gli scavi avvenuti prima dello scoppio del conflitto mondiale, Howard Carter ha trovato vari indizi che lo fanno sperare nel ritrovamento di una tomba ancora inviolata. La sua conoscenza della Valle dei Re e la sua confidenza con la popolazione locale, che lo mette a parte delle storie dei tombaroli, lo portano a ostinarsi anche con Lord Carnarvon, suo finanziatore, che dall'Inghilterra fa sapere di volere abbandonare l'avventura egiziana. Nonostante la guerra in furia, i due si incontrano al Cairo per un appuntamento dove discutere il loro futuro. È il giorno in cui i turchi attaccano il canale di Suez. I finanziamenti che Lord Carnarvon può mettere in campo sono sempre più esigui. Così chiede all'archeologo di concentrarsi su una zona dove rinvenire finalmente oggetti di valore e dare così un senso a tanto denaro speso. Per Carter si apre di nuovo uno spiraglio. Preparato a quel momento, estrae dalla giacca di tweed una cartina con una croce su un luogo preciso della valle. È lì che si devono concentrare gli sforzi. Per individuare la zona si è servito della tecnica di guerra del bombardamento a quadrettatura, dividendo la Valle dei Re in piccole sezioni, in modo che non possa sfuggire nessun ingresso, nessun indizio. È un luogo così magico, come lo descriverà lo stesso Carter, che non si può abbandonare così. La Valle dei Re. Basta il nome ad evocare uno scenario romantico. E fra tutte le meraviglie d'Egitto, non una, io credo, è capace di stimolare maggiormente la fantasia. Qui, in un fondovalle solitario, lontano da ogni segno di vita, con il Corno, il più alto picco di rilievi tebani che si erge a sentinella come una piramide naturale, dormono il sonno eterno 30 o più re fra i più grandi che l'Egitto abbia mai conosciuto. Lord Carnarvon si fa convincere che ci sia ancora qualcosa da scoprire laggiù e dà così inizio alla costruzione di una casa per Carter in prossimità della valle, da dove possa seguire al meglio le operazioni di ricerca. Ce ne parla il suo pronipote. Mio bisnonno finanziò la costruzione della casa di Carter sulla strada che conduceva all'entrata della valle. Doveva servire da abitazione, da ufficio, da laboratorio, per entrambi. Ha inizio così una nuova stagione della loro collaborazione che prosegue tra entusiasmi e delusioni sino all'ottobre del 1922, anno in cui l'archeologo fa ritorno in Inghilterra per sottoporsi a un intervento chirurgico. È il medico di Lord Carnarvon a operarlo. Il rapporto tra i due è ormai di affettuosa amicizia. Nonostante le divergenze iniziali, ora li lega un pezzo di strada fatto insieme sulle orme della storia. Si danno appuntamento al castello di Highclere, residenza del conte, e davanti a una tazza da tè, Carnarvon fa sapere di essere arrivato ormai al capolinea, non avendo ottenuto risultati pari agli investimenti, e si vede costretto ad abbandonare, stavolta sul serio. Carter, andato al mattino a visitare la tomba del padre, in un secondo vede la sua vita passargli davanti. I primi disegni, le visite col genitore ai signori che volevano farsi ritrarre, la prima porta verso l'Egitto che si apre in casa del barone Thyssen Amherst, collezionista di antichità, l'amicizia con l'archeologo Newberry e la prima spedizione al Cairo come illustratore per il British Museum. Quanta vita l'ha riportato di nuovo in Inghilterra. Eppure sente che c'è ancora un piccolo sforzo che si deve fare proprio là, nella Valle dei Re. E lo vuole fare con Lord Carnarvon, perché entrambi sono stati chiamati dal destino. Arrivano alla conclusione che questa è davvero l'ultima missione. Carter partirà l'indomani per l'Egitto per la sua nuova ed ultima avventura. Porterà con sé solo un canarino dallo splendido piumaggio giallo come portafortuna, come talismano. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Destini incrociati. Siamo al castello di Highclere, in Inghilterra, nell'ottobre del 1922, e l'archeologo Howard Carter ha appena convinto il suo finanziatore Lord Carnarvon a non abbandonare la ricerca nella Valle dei Re. Troppe delusioni senza una scoperta all'altezza dello sforzo economico da lui intrapreso lo avevano fatto desistere. Ma il giovane esperto di antichità sente che c'è un ultimo tentativo da fare. Così decidono di imbarcarsi nell'ultima missione insieme. Howard Carter, arrivato nella sua Luxor, accompagnato da un canarino portafortuna, comincia a organizzare i preparativi per dare il via a nuovi scavi. Le forze in campo sono moltissime. Il presentimento che ci sia una grande sorpresa ad attenderlo sotto quelle rocce e quella sabbia non lo abbandona da anni ormai. Dopo giorni di lavoro vicino alla tomba di Ramses VI, senza ottenere grandi successi, Carter annota nel suo taccuino: stavamo per dichiararci sconfitti e ci preparavamo a lasciare la valle per cercare miglior fortuna altrove, quando, proprio all'ultimo colpo di zappa, facemmo una scoperta che superava di gran lunga i nostri sogni più rosei. Decide di concentrare le ricerche proprio qui, dove c'erano i resti delle antiche baracche degli operai che avevano costruito le tombe dei re e che si trovavano a un metro di profondità nella roccia. Il 4 novembre, demolita una di queste baracche, emerge un gradino. È il primo di una scalinata che conduce a una nuova tomba. I lavori per liberare dai detriti le scale proseguono giorno e notte. L'emozione è enorme, ma finalmente ci siamo. Il mio primo impulso fu quello di congratularmi con me stesso. La mia fiducia nella valle non era poi così ingiustificata. La tomba può essere di chiunque. Può addirittura essere una delle tante già visitate dai ladri e quindi spogliate dei suoi tesori. I timori sono concreti, soprattutto perché è già passato attraverso onori e insuccessi come lui. Però, arrivati davanti alla porta sigillata, che porta al corridoio prima della camera funeraria, tutto fa pensare che nessuno vi abbia mai messo piede. Carter cerca di interpretare i sigilli sull'architrave per capire a chi fosse appartenuta. Sicuramente a una persona ad alto rango. Con un martello ricava un piccolo foro nel muro per vedere cosa c'è dall'altra parte. Sente aria di vittoria, ma cerca di controllare le emozioni, come scriverà alla sera. Mi ritrovavo solo, salvo qualche operaio indigeno, alle soglie forse di una splendida scoperta, dopo anni di lavoro relativamente infruttuoso. Oltre quel corridoio poteva esserci qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa. Ci volle tutto il mio autocontrollo per non abbattere subito la porta ed esplorare. Carter fa un grande respiro, fa chiudere il foro che ha aperto per sbirciare all'interno, fa ricoprire il passaggio e ordina agli operai più fidati di montare la guardia giorno e notte. Si aprirà la tomba solo in presenza di Lord Carnarvon, che si trova al momento in Inghilterra. Il 6 novembre parte un telegramma con la notizia tanto attesa. Finalmente una scoperta meravigliosa nella valle. Una magnifica tomba con i sigilli intatti. Ricoperta in attesa del vostro arrivo. Congratulazioni. La notizia del ritrovamento si sparge in tutto l'Egitto. Arrivano congratulazioni da parte delle autorità scientifiche che premono per l'apertura. Lord Carnarvon arriva al Cairo accompagnato dalla figlia Lady Evelyn il 20 novembre. Il 24 dello stesso mese, in mezzo a una folla di giornalisti, visitatori, curiosi e addetti ai lavori, si dà inizio all'apertura. Eccola, la porta del destino. A un'attenta analisi emergono poi i simboli che servono a svelare l'enigma sul proprietario. Compaiono il segno del sole e lo scarabeo. Carter non ha dubbi. È la tomba di Tutankhamon, giovanissimo sovrano della 18ª dinastia che salì al trono all'età di 9 anni e morì alla sola età di 20 anni. La cosa alla quale Carter sta molto attento, come ricorda Alan Gardiner, egittologo presente al momento solenne, è la catalogazione degli oggetti ritrovati. Si trovò nell'anticamera e si rese conto che era di fronte ad una tomba intatta. Dopo aver dato disposizioni per la catalogazione degli oggetti che venivano rimossi man mano che si procedeva, si sentì pronto per affrontare la seconda camera. Il 28 novembre Carter e Carnarvon si trovano davanti alla seconda porta murata che dà accesso alla camera funeraria. L'emozione è tale che non riescono ad aspettare l'indomani per l'apertura ufficiale, così aprono un foro per sbirciare cosa li aspetta. È l'archeologo che per primo entra faticosamente con una mano, illuminando con una torcia elettrica. Senza parole, rimane a contemplare qualche minuto quell'incredibile visione. Quando Lord Carnarvon gli chiede impaziente cosa si veda dall'altra parte, lui risponderà semplicemente: cose meravigliose, cose meravigliose. And all your ammunition's gone, run out of fuel to carry on. You don't know what you wanna do, you've got no pull to pull you through. Say I am wonderful. Il 30 novembre del 1922 arriva la conferenza stampa per mostrare al mondo la tomba di Tutankhamon, la prima tomba di un faraone trovata inviolata. Seduti di fronte alla porta con i sigilli ancora intatti, ci sono tutti. Carter ha portato con sé anche il suo canarino portafortuna. Lord Carnarvon è in prima fila con la figlia. Comincia il rito, come testimonia lo stesso Carter. Ho tagliato attentamente la corda. Ho sfilato le preziose barre di metallo che sigillavano il tutto. E ho aperto la porta. Gli oggetti rinvenuti sono moltissimi, tutti necessari per accompagnare il faraone nel suo sacro passaggio nell'aldilà. C'è la statua di Anubis, protettore del re. Ci sono i vasi canopi, i vasi dove sono contenuti gli organi interni del sovrano, e sulle pareti è rappresentato il suo viaggio. 33 secoli sono passati da che un essere umano ha messo piede qui dentro. Ciononostante, i segnali di un passaggio umano sono tutti intorno a noi. Carter fa catalogare meticolosamente ogni piccolo ritrovamento. Tutto viene fotografato e numerato così come è stato trovato. Il compito della squadra è il più difficile della storia dell'egittologia. Improvvisamente, l'archeologo inglese e il suo finanziatore diventano gli uomini più famosi al mondo. Tutti accorrono nella silenziosa Valle dei Re per partecipare alla scoperta del secolo. Orde di curiosi per vedere la tomba del re fanciullo. Persino Freud, il padre della psicanalisi, spedisce ai due un telegramma. Dispiaciuto di non poter essere là. Vi faccio le mie congratulazioni. Sono momenti indimenticabili. Qualche mese di lavori e sono pronti per entrare finalmente nella camera funeraria. Il 16 febbraio del 1923 si dà inizio a un nuovo rito solenne. Manca ancora l'apertura di una porta, quella che contiene il sarcofago. Pietra dopo pietra si abbatte il muro. La vista viene colpita dal luccichio di un cancello completamente d'oro. Il tesoro di Tutankhamon è solo all'inizio. In quel momento così sacro e pieno di emozione, capitano alcuni fatti piuttosto insoliti. Un vento caldo invade la stanza. Lord Carnarvon avverte un fastidio sulla guancia destra che lo riporta alla magia dell'attimo, alla realtà della situazione. È probabilmente la puntura di una zanzara. Mentre un grosso cobra si intrufola nella sala, si avvicina alla gabbia col canarino portafortuna di Carter e lo inghiotte. Tutto avviene in un istante. L'istante che fa esclamare a un giornalista presente: «Do 6 settimane di vita a Lord Carnarvon». Ha così inizio la leggendaria maledizione di Tutankhamon. I fatti che si succedono sono abbastanza inspiegabili. Lord Carnarvon il 5 aprile del 1923 muore. Non arriverà a vedere il sarcofago interamente d'oro del re fanciullo, l'infinito tesoro scoperto all'interno della tomba e la meravigliosa maschera d'oro che ricopriva il suo volto, diventata insieme alle piramidi e alla sfinge uno dei simboli dell'antico Egitto. Indimenticabile la prima immagine che ne ha Carter. Diedi l'ordine. Fra il profondo silenzio la pesante lastra si sollevò. La luce brillò nel sarcofago. Ci sfuggì dalle labbra un grido di meraviglia. Tanto splendida era la vista che si presentò ai nostri occhi. L'effigie d'oro del giovane re fanciullo. La morte di Lord Carnarvon è solo la prima di una serie di coincidenze nefaste che seguirono quella scoperta memorabile. Lo seguono infatti 2 mesi dopo suo fratello, il colonnello Aubrey Herbert. Poi il milionario americano George J. Gould, interessato all'acquisto di oggetti faraonici. Muore l'assistente di Carter, Arthur Mays, anche questi inspiegabilmente. Richard Bethel, segretario di Carnarvon, colpito da infarto. Il principe Ali Kamal Fatmi, anch'egli entrato nella tomba. Un custode del museo, mentre etichetta alcuni reperti della tomba. Nel 1972, il direttore della sezione antichità egizie, il dottor Gamal Mokhtar, muore il giorno che fa trasferire i tesori del faraone in Inghilterra per una mostra. Nel 1992, lo storico Christopher Frayling presenta una serie per la BBC sul faraone e la sua maledizione. Ma quando si reca sul sarcofago del faraone ricoperto dal vetro, le luci si spengono improvvisamente. Inoltre, uno dei cavi principali dell'ascensore dell'Hotel del Cairo, dove alloggiava, si rompe e la cabina con all'interno il regista e Frayling stesso precipita. Per fortuna, si innesca l'autoblocco. Frayling comunque porta a termine il suo programma, come abbiamo fatto noi oggi, perché non c'è superstizione in grado di fermare una bella storia. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.